Italia in controluce. È il 5 di luglio, è Italia in controluce, l'edizione delle 13.30. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. È la grande stagione del jazz. Tra luglio e agosto, come da tradizione, in molte città italiane si susseguono i principali appuntamenti con tutti i grandi nomi e giovani promesse della scena jazzistica italiana ed internazionale. E il nostro racconto parte da Umbria Jazz, il più strutturato appuntamento italiano per gli appassionati, come racconta Adriana Fracchia. Nessuno nel 1973, anno della prima edizione, si immaginava neanche lontanamente il peso che Umbria Jazz avrebbe esercitato sulla scena musicale e non soltanto italiana. Oggi è un festival conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, un punto di riferimento nell'ambito musicale. Sta per iniziare l'edizione numero 39, che si concluderà il 15 luglio, e già si sta lavorando a quella del prossimo anno. Il direttore artistico di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta. Questa manifestazione è nata circa 40 anni fa con una scommessa di appassionati di jazz. Nessuno di noi pensava di diventare in seguito un addetto ai lavori, per cui di soddisfazioni ne abbiamo avute tante e speriamo di averne ancora negli anni successivi. Il prossimo anno è il quarantennale e già cominciamo a lavorarci, perché non si può scherzare per un anniversario del genere. 1973-2013. Dobbiamo mantenere alto il livello di questo festival, perché crisi o non crisi, d'accordo che qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, ma però siccome non è vero, l'Umbria funziona anche come turismo e oltre la cultura, noi teniamo alto questa manifestazione che ormai è nota in tutto il mondo e non vogliamo farci riconoscere come gente che subisce la crisi. Come è riuscito a mantenere alto questo impegno in tutti questi anni? Innanzitutto, a parte gli sponsor che vanno e vengono a seconda di com'è la situazione, e oggi non è che sia molto bella, devo dire che le istituzioni, in prima fila la Regione Umbria, che ha creduto a questa manifestazione sin dall'inizio e quindi ci ha sicuramente investito. Poi non mi dimenticherei la formula di musica a tutte le ore, con concerti a mezzanotte cominciando però a mezzogiorno, le clinics di Umbria Jazz insieme al Berklee College of Music, non dimentichiamo che la collaborazione più antica che c'ha il Berklee di Boston, sono 27 anni quest'anno che i docenti del Berklee vengono per 2 settimane a Perugia per le clinics. Questa formula, la magia del centro di Perugia, l'Umbria, eccetera, eccetera, hanno creato questo mix, direi, unico, perché di festival jazz ne sono tanti, evidentemente Umbria Jazz c'è qualcosa in più, al di là dei musicisti. Dei quali peraltro alcuni tra i più grandi sono stati anche fedeli nel tempo, l'ultimo Sonny Rollins, che tra l'altro quest'anno riceverà un importante riconoscimento da Perugia, il Baiocco d'Oro. Sì, che sarebbe come le chiavi della città, ecco. Consideri che Sonny Rollins anni or sono, proprio dal Berklee College of Music, aveva ricevuto la laurea ad honorem proprio qui a Perugia in una famosa manifestazione presso il comune di Perugia, la sala dei notari. E non è stato l'unico che ha avuto la laurea d'onore, ma Perugia, Sonny Rollins, McCoy Tyner e altri. A dirigere le clinics della Berklee College of Music di Boston ad Umbria Jazz è il contrabbassista Giovanni Tommaso, fondatore negli anni 70 del quintetto jazz rock dei Perigeo. 27 anni fa, ieri l'altro praticamente, Carlo Pagnotta mi ha nominato direttore artistico e così siamo partiti per New York, dove c'era in quei giorni una convention che si chiamava Jazz Time Convention, con molti osservatori, molti operatori del settore, e abbiamo chiacchierato con direttori artistici di scuole varie e abbiamo deciso di fare un salto a Boston, alla sede del Berklee College, per parlare con l'allora presidente, che niente altro è che il signor Lee Berk, era Lee Berk Berklee, cioè il figlio del fondatore proprio del college. Abbiamo avuto questo colloquio e il signor Lee Berk, che poi negli ultimi anni è andato in pensione, è stato sostituito da Roger Brown, che è il nuovo presidente, ci ha presentato l'allora preside dei corsi di musica, che si chiama ancora Gary Barton, quel vibrafonista eccelso, anche lui è in pensione dal Berklee adesso. E Abbiamo avuto questo colloquio con il presidente, appunto, Liberc, Gary Bart, il quale ha detto: per una collaborazione di questo tipo bisognerebbe che vi presentassi il vicepresidente, che è il signor Larry Monroe, che si occupa di tutti i rapporti internazionali, chiamiamoli così, i rapporti con l'estero. E quindi siamo stati introdotti a Larry Monroe, abbiamo parlato di varie possibilità e ci siamo riservati una risposta su questa collaborazione. Siamo tornati a New York, sono stato invitato da Carlo a esprimere un giudizio. Io ho detto: senti, io mi butterei con questo esperimento perché conosco il prestigio del BEC fin da quando ero bambino. Abbiamo fatto un anno di esperimento, siamo a 27 anni dopo e continuiamo a collaborare con loro perché sono veramente in gamba. Questa edizione 2012 di Umbria Jazz celebra due eventi importanti: i 30 anni dalla morte di Thelonious Monk e il centenario della nascita di Gil Evans. È un'esclusiva europea perché noi portiamo la Eastman Orchestra diretta da Ryan Truesdell, che è uno studioso della musica di Gil Evans, per 6 concerti dove verranno riproposte le cose migliori scritte da Gil Evans, perché Ryan Truesdell ha avuto accesso a tutti gli spartiti, a tutto quello che c'è nella casa di Gil Evans, grazie alla moglie Anita Evans. E quindi l'orchestra, l'Eastman Orchestra, 30 elementi con special guest italiani, perché abbiamo voluto coinvolgere anche parte dei musicisti più importanti, quindi ci sarà Fresu, Bosso, Caviso e Di Battista come ospiti speciali, e verranno riproposti le cose migliori da Sketch of Spain, Out of Cool, eccetera eccetera, 6 concerti. Questa sicuramente è stato uno sforzo finanziario, perché in questa situazione far venire soltanto di voli è costato $50,000, quindi voglio dire, questa è, però non abbiamo voluto rinunciare a questo progetto speciale sul quale ci lavoravamo da un anno. E poi i 30 anni della morte di Thelonious Monk, anche questo è una delle pietre miliari del jazz. Una delle poche cose delle quali mi pento è di non essere riuscito a portare a Perugia Thelonious Monk. Pochi non hanno suonato a Perugia, ma purtroppo Monk è uno di quelli. Ad aprire quest'anno Umbria Jazz, Chick Corea sul palco con Stefano Bollani. Il grande pianista jazz italiano suonerà poi anche con Hamilton De Olanda. La collaborazione con Chick è nata proprio grazie a un'idea di Umbria Jazz 3 anni fa. Non solo, ma si è sviluppata in una serie di concerti, 3 dei quali si sono svolti poi a Umbria Jazz Winter a Orvieto, e che hanno dato vita a un disco live che abbiamo chiamato Orvieto, appunto, che è uscito per il CM, e adesso torniamo a Umbria Jazz. Quindi diciamo è un percorso abbastanza logico, ed è un'idea venuta al festival che ovviamente mi ha visto entusiasta. Io ho cominciato a scrivere mail a Chick, abbiamo cominciato a parlare di musica, e ho scoperto che stavo dialogando con un bambino appassionato di musica, nonostante si parli invece di uno dei più grandi pianisti al mondo e che è arrivato anche alla bellezza di 70 anni. E nella seconda parte di questo concerto invece suonerai con Hamilton De Olanda. Hamilton l'ho conosciuto un paio d'anni fa, stiamo suonando in duo abbastanza, sia in Brasile che in Italia, e vorremmo registrare un disco in duo perché abbiamo questa passione più ovvia per lui e più particolare per me per la musica brasiliana tout court, per cui suoniamo brani che vanno dai brani dei grandi eroi della musica popolare brasiliana, quindi Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, fino a degli choro antichi, dei samba, ma anche dei brani italiani, anche dei brani originali. Insomma, stiamo sviluppando un repertorio comune. Lui è uno dei più grandi, forse il più grande virtuoso di questo strumento, che somiglia al nostro mandolino, ma che loro chiamano bandolino. Perché Umbria Jazz è così prestigioso come festival? Cioè, cosa l'ha reso più grande, diverso da altri festival che ci sono? Ci vorrebbe un'analisi approfondita. Io dico solo una cosa: c'è la bellezza del luogo, perché molti altri festival si svolgono in città grandi, in città con strutture accoglienti e tutto quello che vuoi, però insomma Perugia e Orvieto, dove si svolge l'edizione invernale, sono due città meravigliose, lo sanno tutti gli studenti che vanno là, ma lo sanno anche le persone che passano di lì per turismo, e lo sanno soprattutto gli appassionati di Umbria Jazz, perché è un tipo di città ideale, perché si cammina facilmente da un teatro all'altro, da un locale all'arena dove si svolgono i concerti, per cui c'è musica dappertutto, il tutto si svolge in un piccolo centro centro che è di una bellezza sfolgorante. Dopo tanti anni di fatiche per portare a Perugia i protagonisti del jazz internazionale, per mettere ogni volta insieme un grande cartellone e nonostante il numero delle presenze cresca ad ogni edizione, Carlo Pagnotta non nasconde una certa amarezza. È molto seguito, ma la crisi specialmente dei CD la sentono tutti, ovviamente, compreso il jazz, su questo non c'è dubbio. Però gli italiani sono molto attenti a questo tipo di musica, sarebbe ora se ne accorgessero anche al Ministero. Per il Ministero ci sono figli e figliastri, immagini che un jazz non prende una lira di contributo. Secondo me è uno scandalo. I soldi non ci sono perché il jazz non fa parte della nostra cultura. Il jazz è stato chiamato la musica classica del XX secolo, ma pazienza. L'appello dell'assessore al turismo della Regione Umbria, Fabrizio Bracco. La produzione culturale è un fattore altrettanto importante della competizione di un territorio, quindi che favorisce la competizione delle imprese che sono insediate in quel territorio. Per una regione come noi la cultura è anche un volano di sviluppo per quanto riguarda lo sviluppo turistico, quindi siccome per noi il turismo sta diventando uno dei settori importanti di sviluppo della nostra regione, è chiaro che la cultura aiutando lo sviluppo del turismo aiuta lo sviluppo economico complessivo, quindi in due sensi direi, da una parte accrescere la qualità competitiva della regione, dall'altro essere un attrattore di attenzione sull'Umbria, ma nel momento in cui si è attenti all'Umbria si è attenti anche a ciò che l'Umbria contiene. Era l'edizione odierna di Italia in Controluce, torniamo domani alle 13.30 su Radio 24 con Scuola in Controluce di Piraceci. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate di Italia in Controluce, sono ascoltabili e scaricabili in podcast attraverso il sito radio24.it. Siamo su Facebook, la pagina, il gruppo, su Twitter avete in anteprima tutti i temi della settimana di Italia in Controluce.